Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino. Ben ritrovati su Radio 24 e ben ritrovata a Ivana Di Martino. Ciao, buongiorno, buona domenica. Oggi Ivana è una domenica particolare perché abbiamo un ospite particolare nell'accezione positiva del termine, ovviamente, perché è qui con noi la campionessa di marcia Eleonora Anna Giorgi, benvenuta. Grazie, ciao a tutti. Allora, Personal Best ha come focus la corsa, ma ci piacciono anche le specialità che ci gravitano intorno, quasi in modo complementare, diciamo così. E una di queste specialità è la marcia, in cui tu sei una fuoriclasse. In cosa si differenzia innanzitutto la marcia dalla corsa tradizionale? Beh, la marcia c'è una tecnica, ci sono delle regole da rispettare e appunto non sto qui ad annoiarvi con le regole precise, ma le due principali sono il bloccaggio del ginocchio, quindi la gamba che avanza deve essere tesa dal momento in cui il tallone tocca per terra, e la sospensione, cioè i giudici, deve essere visibile all'occhio umano, quindi del giudice, e un piede dovrebbe sempre essere attaccato al terreno. Quello che non succede nella corsa, perché sappiamo che quando si corre... Sì, c'è una fase di volo. C'è una fase di volo, insomma. Sì. Dicono che gli atleti professionisti passino il tre quarti della corsa sospesi, mentre per un amatore un po' meno, insomma. Tu come sei arrivata alla marcia? Io sono arrivata un po' tardi, diciamo, ho cominciato a 18 anni nel 2007, in seguito ad un infortunio, perché prima ero una mezzofondista, ero discreta, diciamo... facevo anche le corse campestri e ho avuto una tendinite, periostite, poi in realtà non l'ho mai capito cosa di preciso, e un po' per caso, grazie a mia mamma Graziella, ho cominciato a marciare. Quindi inizialmente ricordo che arrivavo sempre ultima, quindi, e anzi con i signori più anziani di 80 anni, perché c'è un trofeo frigerio che si svolge nel nord Italia, quindi questi signori che mi passavano la spugna, la borraccia. Poi è diventata una sfida, perché mi sono appassionata, vedevo dei miglioramenti continui con l'allenamento, e poi ho iniziato a partecipare ai primi campionati italiani, a vincere i primi titoli italiani giovanili, le prime nazionali giovanili, e da lì non mi sono più fermata. Qual è la tua specialità? La specialità olimpica è la 20 km, però a volte mi cimento anche in distanze più corte come la 3 km indoor, i 5 km, i 10.000 in pista, però in allenamento sono arrivata anche a fare 40 km. Qual è la differenza tra correre a coperto e correre sulla strada normale? Beh, al coperto a me piace perché io sono freddolosa, quindi mi piace molto la preparazione delle indoor, però la pista è da 200 metri, quindi mi sento un po' un criceto perché a volte non passano mai i giri. Invece allenarsi sulla strada, beh, noi marciatori siamo un po' più sfortunati perché possiamo allenarci solamente in luoghi asfaltati o col cemento, mentre voi runner potete andare in mezzo ai boschi, montagne, vedere percorsi un po' diversi. Sì, esatto. E quindi noi siamo sempre su giri anche misurati con la bindella. Però mi piace anche allenarmi sulla strada perché, beh, a Milano un po' meno, perché è molto pericoloso. Perché c'è il famoso giro dell'ippodromo. Esatto. Che dove... però è in mezzo alla strada tra le auto. Sì, anche al pomeriggio siamo intorno al campo 25 aprile, anche lì c'è un pezzo in mezzo alla strada, quindi bisogna avere sempre mille occhi e stare attenti a tutti gli automobilisti. Quanti giorni ti alleni alla settimana e quanto corri, e se corri? Io mi alleno tutti i giorni, due volte al giorno. Solitamente l'allenatore ci concede anche un giorno di riposo la domenica, quindi mi alleno 6 giorni alla settimana. Per un totale vado da minimo 120 km e sono arrivata a 180 km in una settimana. Sì, a volte corriamo anche, quindi sfatiamo il mito, no, perché c'è la leggenda che i marciatori non sappiano correre. In realtà nella preparazione invernale vengono inseriti anche degli allenamenti di corsa, anche se io da quando sono stata operata al ginocchio, che non ho più corso, un po' per paura di rifarmi male, quindi stavo aspettando, però mi piace veramente tantissimo correre. Ma cosa fate? Ripetuto o fate comunque solo, non so, lento, comunque di corsa, dico? Di solito facevamo 10 o 15 chilometri di corsa, però non ripetute, magari un progressivo, partiamo un po' più piano o finiamo più veloce. Tra l'altro tu marciando vai fortissimo, cosa dicono gli uomini quando li superi? No, no, diciamo che è una bella sfida, alcuni runner si indispettiscono, si innervosiscono. Perché... perché ho fatto due conti così, no? Tu hai un personale, se non sbaglio, sulla 20 km di 1 ora 26:17. Esatto. Okay. Che tradotto in minuti al chilometro, sei 4:18 al chilometro. Sì, che esatto. In una mezza maratona diciamo che potrebbe arrivare, 80% delle persone arriva dietro di te. So. È un bel andare. Insomma. Chi ti incontra per strada, da che corrono, insomma. Sì, no, infatti anche al parco, vabbè, diciamo che sono anche fortunata perché posso trovare tante lepri che mi aiutano anche durante gli allenamenti. Quindi... Tu preferisci avere un marciatore di fianco che fa la lepre o uno che corre? Dipende, non ho preferenze, diciamo che mi piace allenarmi in gruppo e non da sola come molto spesso mi capita, perché la maggior parte degli allenamenti sono da sola, c'è un gruppo con cui mi alleno, però anche l'altro ragazzo Matteo Giupponi con cui mi alleno, lui va molto più forte rispetto a me, quindi riusciamo a fare solamente alcuni allenamenti. E, ad esempio il sabato, quando ci sono anche tanti amici che corrono e appunto riescono ad allenarsi con me, mi pesa meno, mi passa anche più veloce magari la 20, la 25 chilometri che devo svolgere. Durante la marcia ci sono sempre, no, gli arbitri, i commissari che ti tengono sott'occhio, no? Tu ti rendi conto tu quando stai commettendo un errore, hai sollevato i piedi da terra? In realtà è molto difficile capire quando si sta marciando male, perché si è talmente al limite, si sta facendo così tanta fatica che appunto magari ci si piega un pochino, si fa fatica a respirare o ci si ciondola con la testa o altre cose, quindi è veramente difficile rendersi conto. Durante la gara ci sono i giudici che ci possono ammonire prima con la paletta gialla e se pensano che poi continuiamo a marciare male ci danno il bollino rosso. Okay. E c'è questo tabellone, al raggiungimento di 3 bollini rossi si viene squalificati, quindi questo è un po' il brutto dello sport, perché di questo sport, perché a volte uno si allena per mesi, come è capitato anche a me. Quindi essere squalificati magari al 18° chilometro non è il massimo, perché ti crolla addosso tutte delle certezze. Qual è il tuo sogno nel cassetto? Il mio sogno nel cassetto, in questo momento si chiama Tokyo 2020. Okay. E... che meraviglia! Sì, dove appunto si svolgeranno le prossime Olimpiadi, e sarebbe la mia terza partecipazione a un'Olimpiade. Adesso incrociamo tutte le dita perché manca ancora tanto tempo e in 3 anni può capitare di tutto. Però è un sogno a breve e lungo termine, perché in realtà 3 anni sembrano tanti, ma passano velocemente. E lì spero appunto di conquistare una... No, non diciamo niente, dai, per scaramanzia. Spero di andar bene. Poi comunque anche solo partecipare alle Olimpiadi è il sogno di tutti gli atleti. Quindi mi rendo conto che uno vuole sempre ambire a qualcosa di più, però già essere lì è veramente un'emozione indescrivibile. Però guardando, parlando appunto di Olimpiadi o mondiali, possiamo dire, guardando un po' la classifica dei tempi sui 20 km di marcia femminile, emerge il fatto che Russia e Cina abbiano una rilevanza molto importante. I primi 43 tempi sono russi, cinesi, poi c'è una bulgara e poi c'è la tua migliore prestazione. C'è una tradizione molto forte in questi paesi tra Russia e Cina della marcia. Sì, c'è una tradizione molto forte, soprattutto in Russia, dove appunto ho avuto la fortuna di fare alcune gare, e penso che in Russia la marcia sia un po' come il calcio in Italia, sia quasi venerato, perché mi è capitato di fare una gara nel 2008 in occasione della Coppa del Mondo e c'erano migliaia di persone che ci acclamavano, conoscevano il nome di ogni atleta che era in gara, ci strappavano, volevano strapparci i vestiti di dosso perché poi sono malati dell'Italia, quindi diciamo che lì sicuramente anche i ragazzini sono anche più invogliati a fare questo sport, perché vedono gli altri atleti come come dei calciatori. Okay, sì, sì, c'è un'attenzione diversa. Certo, sì. Hanno punti di riferimento, quindi sì, esatto. Vogliono comunque è un po' quello che succede seguirli. In Kenya e Etiopia per quanto riguarda la maratona. Sì, sì, sì. A proposito di maratona, ti piacerebbe così, non so, in futuro fare una mezza maratona, una maratona correndo però? Sì, mi piacerebbe, anche quello è un sogno nel cassetto e devo dire che vabbè, la più celebre è quella di New York, quindi un giorno mi piacerebbe correre a New York e ho avuto l'occasione di fare una mezza maratona però marciando e ho fatto un allenamento... È stato lo scorso anno a Firenze. Quindi a fine novembre. Sì, però ho fatto la mezza e devo dire che è stato bellissimo perché correre con migliaia di persone e avere appunto dei punti di riferimento, quando di solito le gare di marcia non siamo così tanti, è stato veramente motivante e appagante. Ma marciare intorno a persone che corrono non ti porta a correre anche a te, no? No, ti porta a marciare più forte. Ah, ok. Poi alcuni appunto vedendoci marciare si sono informati, volevano sapere chi fossimo. Anzi, anche loro, quando gli ho detto che tempi avevo sulla 20 km, sono rimasti un po' stupiti. Sì, sì. Quindi può essere una cosa stimolante. Sì, sì, sì, sì. Sia per i runner, però anche per me è stato stimolante. Ma esistono invece delle corse di marcia amatoriali, quello che succede diciamo nel running tradizionale? Sì, sì, ci sono i master, okay. Gare master, campionati italiani, master, e anche loro sono molto agguerriti, anzi forse più passa il tempo e più hanno voglia anche loro di vincere. Alcuni sono ex marciatori e altri invece... sono persone che magari hanno cominciato da poco in seguito ad un infortunio. Okay, ma la gente si avvicina anche per quello, perché magari è un po' meno traumatico, anche se poi insomma tu raccontavi del tuo infortunio, però magari sì. Anche per quello. Sì, sì, perché comunque vanno anche forte, relativamente forte, perché per esempio c'è un ragazzo che marcia con me la sera, pomeriggio, e lui viene dalla corsa e adesso ha cominciato a marciare, è arrivato, va anche a 4,30 al chilometro, ecco. Per 10 chilometri. Fra un poco mi dedicherò anche alla marcia. No, beh, diciamo che chi viene dalla corsa è avvantaggiato, perché ha il fiato, molti più muscoli allenati, quindi dal punto di vista aerobico è molto più allenato. Immagino che come tecnica invece sia comunque svantaggiato, no? Perché avrà sempre la tendenza di correre, no? Diciamo che l'errore più comune per chi arriva dalla corsa è proprio lo sbloccaggio, perché non si riesce ad arrivare con il ginocchio teso, ma ti viene da piegare il ginocchio come nella corsa. Però con un bel po' di lavoro e di allenamento si può imparare anche a marciare, non è una cosa impossibile. Grazie a Eleonora Giorgi. Grazie a voi e in bocca al lupo allora a tutti presto. I runner. A presto, ciao. Grazie. Ivana, anche per oggi è tutto, vi ricordiamo il nostro indirizzo email per i vostri commenti e le vostre domande, personalbest@radio24.it. Buona domenica a tutti. Personal Best. Tutte le puntate sono disponibili su radio24.it.